Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Iniziare a pensare è un po' come guidare una macchina. Arrivi a 18 anni, ti dicono che sei adulto e fai la patente. E da quel momento in poi puoi guidare. Ma non sai ancora guidare bene. Ecco, lo stesso vale per il pensiero. Esci dall'adolescenza, ti vedono grande, grosso ed educato e pensano che tu sia un uomo, di quelli che sanno usare la testa. Mi chiamo Andrea Rizzini, ho 20 anni, abito a Calusco d'Adda in provincia di Bergamo e studio medicina e chirurgia a Milano. Sto pensando che la mia attività deve andare bene per forza, perché vendo delle belle cose. Sto pensando che oggi in ufficio ho risolto i problemi di 1000 persone, ma i miei, chi li risolve? Sto pensando per quale motivo mi sono messo a dieta, voglio cioccolato. Sto pensando che la vita non ha libretto di istruzioni, e nessuno me l'aveva detto che un indiano e un cinese mi stavano fottendo lavoro e futuro. Sto pensando a cosa preparo per cena. Sto pensando alle mie ferie. Sto pensando che se il film consigliato non mi fa ridere, domani picchio la mia amica. Sto pensando alla tesi di laurea. Sto pensando che oggi è stato il mio secondo giorno di università e mi piace. Sto pensando al moment act. Sto pensando di andare via in moto. Sto pensando sempre alla stessa persona, quella sbagliata. Sto pensando al film di Olmi. L'ho appena visto e non so se ho capito del tutto. Sto pensando che tutto è relativo alla tassa rifiuti, a come il prof di tributario riesca a spiegare così tanto in poco tempo. Sto pensando che adesso arrivano i bambini a casa e incomincia la parte faticosa della giornata. Sto pensando che vorrei avere un programma per questa sera. Sto pensando a Linda. Sto pensando alla mia ex, che si è laureata. Sto pensando che sono in Germania e adesso mi vado a bere una bella Weissbier. Questo è il miglior gioco che abbiamo fatto da quando è cominciato questo programma. Si chiama Sto pensando che. 349-238-6666. Sono le 16, 8 minuti e 49 secondi di un giovedì mica qualunque, di un giovedì 13 ottobre 2011. Magari ricordarsi la data. La prossima volta Margherita la evidenzio, così me la ricordo. Giovedì 13 ottobre 2011. E il gioco è semplicissimo. È a cosa state pensando? Ora, in questo momento preciso, qualsiasi sia la cosa a cui state pensando, è il momento di scriverla. 349-238-6666. È come una macrofotografia del vostro cervello, del vostro pensiero. Immaginate una mappa, tipo quella che abbiamo sul sito, sulla pagina del sito di Radio 24, sulla pagina di Voi Siete Qui. Sapete che c'è una mappa. Non l'avete ancora vista? Andate a vederla. Ci cliccate sopra e si apre una cartina dell'Italia in cui ci sono tutte le persone che hanno partecipato e che parteciperanno a questo programma. Ci sono dei pezzi della storia, le loro foto e dove si trovano. Ecco, oggi facciamo una cosa simile. Facciamo la fotografia di una mappa di tutto quello a cui state pensando in questo momento. Ora. 349-238-6666. Abbiamo scritto sul profilo Facebook questa cosa e sono arrivati oltre 100 passa messaggi in neanche un paio d'ore. Questo perché? Perché la puntata di oggi è una puntata particolare che parla di quella cosa lì. Non parla tanto di che cosa stiate pensando. Parla semplicemente della capacità di imparare a pensare, che è una cosa che non è molto frequentata in realtà nella nostra cultura, direi, ma o in generale non è particolarmente frequente che qualcuno ti spieghi come si impara a pensare. Addirittura sembra assurdo immaginare che pensare sia un'attività che si possa imparare, e invece pare proprio che sia così, pare proprio che ci sia un metodo, che ci sia la possibilità di capire cosa pensare, quanto farlo e quando farlo, e questa cosa probabilmente rende la vita anche un po' più facile. 349-238-6666, a che cosa state pensando in questo momento? Il racconto di oggi è un racconto che ci ha mandato Andrea, che ha 20 anni, ho scoperto adesso, e non l'avrei mai detto, leggendolo, intendo dire, non l'avrei mai detto. Ed è un racconto particolare, appunto, perché a differenza di altri non è strutturato attraverso un episodio, ma parla di quella cosa lì, parla della riflessione e del pensiero. E questa puntata è una puntata a cui tengo particolarmente, non solo perché c'è questo racconto che mi è piaciuto in modo particolare, ma perché mi ha dato la possibilità di tirare fuori una vecchia cosa. che è un discorso che ha tenuto David Foster Wallace anni fa e che parla proprio di imparare a pensare. E intanto 349-238-6666 già arrivano. Ora sto pensando di cambiare lavoro, sto pensando cosa gli scrivo a questo qui, sto pensando sono in autostrada, devo fermarmi a fare la pipì, sto pensando che le emozioni di pancia spesso tradiscono, sto pensando a come separarmi da mia moglie, sto pensando a Miller, Fenoglio, Carver e Bukowski, tutti insieme. 349-238-6666. Questo è quello che invece stava pensando Andrea. Ci sono quei momenti in cui uno si ferma e riflette. Prima di dormire, ad esempio. In auto, fermi in coda. In quei momenti i pensieri si accavallano a tal punto che se già dopo 10 minuti provi a ricordarteli, nella testa scopri di avere un groviglio di idee in cui è impossibile districarsi. Però fa bene. È uno sfogo. E aiuta a capire che fermarsi ogni tanto è bello. Pensi e ripensi, fai quelle orribili cose che al catechismo chiamavano esame di coscienza, che immediatamente dopo che te lo dicevano ti chiedevi: ma coscienza si scrive con la I o senza? Fermarsi a riflettere fa bene, credo sia anche un bello sport, di quelli che ti prendono, che più ti alleni e più vorresti allenarti. Quasi fosse una droga. Penso che la mia formazione scientifica, diciamo, fatto il liceo scientifico, possa aver aiutato a pensare sempre a qualcosa, diciamo, non farsi trascinare troppo, ma a pensare troppo in un certo senso, quindi magari anche a sbagliare. Forse anche allenarsi al pensiero genera endorfine. Ho letto da qualche parte che le endorfine non solo non ti fanno sentire il dolore, ma generano una sorta di euforia, che viene chiamata lo sballo del corridore, che è simile all'effetto da ebbrezza che genera la profondità nei confronti dei sub. L'allenamento al pensiero però rischia di farti male se non capisci che stai esagerando, se ti alleni male ad esempio. Bisogna evitare di stirarsi, di avere dolori da sforzo prolungato. Bisogna sapere quando prendere un giorno di riposo e quando invece intensificare l'attività, altrimenti rischi di farti male. Ecco, col pensiero corri lo stesso rischio. E da un giorno all'altro ti ritrovi a girare gli ospedali, a farti visitare da medici che non trovano nulla che non vada, ma tu continui a stare male. È un malessere strano. È un continuo, incessante pensiero che ti occupa la testa e ti disattiva. Neanche fossi un computer, no? Che puoi mettere in stand-by. È talmente invadente questo pensiero che non riesci neanche a definirlo, non riesci neanche a dargli una forma. Se possibile, questo peggiora ulteriormente le cose, perché anche quando la gente ti chiede «Ciao, come va?», tu rispondi sempre «Bene». Perché ti costa meno, no? E perché alla fine dire che stai male fa troppo vittimista. Iniziare a pensare è un po' come guidare una macchina. Arrivi ai 18, ti dicono che sei adulto e fai la patente. Da quel momento in poi guidare lo puoi fare, ma non sai ancora guidare bene. Lo stesso vale per il pensiero. Esci dall'adolescenza, ti vedono grande, grosso ed educato e pensano che tu sia un uomo, no? Di quelli che sanno usare la testa. Che è vero, la sai usare. Ma è un po' come quando prendi una curva in automobile un po' troppo allegra. Ormai ci sei dentro e nessuno ti ha spiegato come uscirne intero. Se ti va bene, la curva finisce e tu tiri il famoso sospiro di sollievo. Ma se ti va male e subito dopo c'è un albero, rischi di andare ad abbracciarlo. Non penso ci sia un modo perfetto o ideale per pensare, anche perché poi ognuno si comporta e riflette anche in maniera differente a seconda del proprio carattere. Forse ognuno deve solo trovare il suo di modo per pensare, cioè di capire un po' cosa sta vivendo e come deve affrontare i problemi che gli si pongono davanti. In quei momenti sei solo, in mezzo a tutti, e tutti ti parlano convinti di aiutarti, ma ti confondono ancora di più le idee, se è possibile. E poi, invece, a un certo punto, arriva qualcuno, ti saluta, ti prende per mano e ti porta fuori dalla folla di pensieri e di persone. Questa persona non ti guarda in faccia, non parla troppo, ma sa ascoltare e sa dirigere i tuoi pensieri. Ti rendi conto, sollevandoti pian piano, che la selva oscura in cui eri finito, vista da un'altra prospettiva, non è altro che un piccolo cespuglio, su un'enorme collina di infiniti cespugli. E tutto allora riacquista il giusto peso, ritrovi un senso a quello che fai, e anche pensare torna ad essere bello. Il pensiero è il più grande dono che abbiamo. Non è solo quello che ci rende diversi dagli animali, non è solo il gradino superiore dell'istinto. È il modo in cui capiamo il mondo, in cui diamo un nome alle cose, in cui capiamo chi siamo noi in mezzo agli altri, e gli altri intorno a noi. Pensare è il mio muscolo preferito e voglio tenerlo allenato sempre di più. Ve lo dicevo prima, stando ai punti fermi che ci eravamo dati per questo programma, il racconto di Andrea non avremmo dovuto sceglierlo. Perché non c'è una storia, perché non c'è un episodio circoscritto di vita vissuta, no? Non c'è un inizio, uno sviluppo e una fine. Però in questo racconto c'è una cosa che personalmente mi affascina in maniera quasi morbosa, che è l'utilità e la difficoltà del pensiero umano. Ho sempre pensato che pensare sia un'attività molto complicata, che serva un'educazione al pensiero e che non esistono corsi di riflessione nell'università. Beh, certo, uno può iscriversi a filosofia, però non è esattamente la stessa cosa. E quando ho riletto una seconda volta il racconto di Andrea, mi è venuto in mente un discorso magnifico che vi dicevo prima, ve lo citavo, che David Foster Wallace ha tenuto per la cerimonia delle lauree ad un'università americana nel 2005. È un discorso abbastanza breve, durerà un quarto d'ora, si intitola Questa è l'acqua. Ed è proprio un mini saggio su quanto sia importante avere sempre la consapevolezza di chi si è, di dove ci si trova e soprattutto sulla libertà di pensare in maniera autonoma. E il discorso inizia con una storiella. There are these two young fish swimming along and they happen to meet an older fish swimming the other way who nods at them and says, "Morning boys, how's the water?" And the two young fish swim on for a bit and then eventually one of them looks over at the other and goes, "What the hell is water?" Ci sono due giovani pesci che nuotano uno vicino all'altro e incontrano un pesce più anziano che sta nuotando in direzione opposta. Fa loro un cenno di saluto e poi dice, "Buongiorno ragazzi, com'è l'acqua?" I due giovani pesci continuano a nuotare per un po'. Poi a un certo punto uno dei due guarda l'altro e chiede, "Ma cosa diavolo è l'acqua?" Questa è la storia con cui inizia Wallace. E poi prosegue con degli esempi dei ragionamenti più o meno complicati verso i neolaureati. E uno di questi dice esattamente così. Dice, come saprete già da un pezzo, è molto difficile rimanere consapevoli e attenti nella vita tutti i giorni. Sarebbe molto più semplice lasciarsi ipnotizzare da quel monologo costante che è all'interno della nostra testa, cosa che peraltro potrebbe star succedendo anche in questo momento. 20 anni dopo essermi laureato, sono riuscito lentamente a capire che lo stereotipo dell'educazione umanistica che vi insegna a pensare, in realtà è solo un modo sintetico per esprimere un'idea molto più significativa, molto più profonda, e cioè che imparare a pensare vuol dire, in realtà, imparare a esercitare qualche controllo su come e cosa pensi. Cioè significa essere abbastanza consapevoli e coscienti per scegliere a cosa prestare attenzione e cosa no, ma soprattutto su come dare un senso all'esperienza comune. Perché se non potrete esercitare questo tipo di scelta nella vostra vita adulta, beh, allora sarete veramente nei guai. Fate una cosa, pensate al vecchio luogo comune della mente come ottimo servitore, ma pessimo padrone. Ecco, questo, come molti luoghi comuni, sono inadeguati, sono poco entusiasmanti in superficie. In realtà però esprimono una grande, una terribile verità. E io lo so che questa roba probabilmente non vi sembrerà molto divertente, non vi sembrerà particolarmente ispirata come di solito un discorso per questo genere di cerimonie dovrebbe sembrare. In questo però consiste, per come la vedo io, la verità, quella con la V maiuscola, scrostata da un sacco di stronzate retoriche. Poi ovviamente voi siete liberi di pensare quello che volete di tutto questo, ma per favore fate una cosa, non prendetelo come se fosse un sermone ammonitorio, perché niente di questa roba è sulla morale o sulla religione, sul dogma o sul grande problema della vita dopo la morte. La verità con la V maiuscola è sulla vita prima della morte, è sul valore reale di una vera istruzione, che non ha quasi nulla a che spartire con la conoscenza e ha molto a che fare invece con la semplice consapevolezza. La consapevolezza di cosa è reale ed essenziale, che magari è ben nascosto ma è in piena vista davanti a noi, in ogni momento. Per cui noi dobbiamo smettere di ricordarci più e più volte, non dobbiamo smettere mai di ricordarci questa è acqua, questa è acqua. Ed è straordinariamente difficile da fare, rimanere coscienti e consapevoli nel mondo adulto. Questo vuol dire che anche un altro dei grandi luoghi comuni è vero. La vostra educazione è realmente un lavoro che dura tutta la vita e comincia ora. Auguro a tutti una grossa dose di fortuna. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Yeah. che cosa state pensando? 349-238-6666. Penso che oggi vorrei fare l'amore con Massimiliano, ovunque senza pensare che non sarà mai possibile. Sto pensando che mi sono ritrovata da quando mi sono persa un'altra persona. Ho deluso un mio cliente, sto pensando a quello. Penso all'ossigeno nell'aria che sto respirando e se improvvisamente non ci fosse più, questo è pane, questa è proprio paranoia pura. Sto pensando, ma esiste anche chi non pensa? Beh, sicuramente. Sto pensando, niente, sto pensando a mio suocero che mi ha fregato i miei soldi. Sto pensando che avrei dovuto farmi l'animatore di Maiorca. È un po' tardi, siamo al 13 di ottobre, che giorno è? 13 di ottobre, mi sa che è tardi. Sto pensando che avrei potuto prendermi ciò che volevo e invece non l'ho fatto. E poi ti prego, dimmi come si chiama sto libro. Proprio quello che sto vivendo ora. Questo libro qua non è un libro, è solo un pezzo, sono poche pagine che si intitolano Questa è l'acqua, che sono in una raccolta e in Audi che si intitola Questa è l'acqua, che è nata proprio, che è uscita proprio poco dopo la scomparsa di Foster Wallace nel 2009. Comunque, se dovesse interessarvi, se girate su Facebook, appena finito il programma, noi carichiamo alcuni stralci di questo discorso che Foster Wallace fece nel 2005. 349-238-6666. Io non so che cosa stia pensando esattamente in questo momento Andrea, però glielo chiedo direttamente. Pronto, Andrea? Ciao, Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie, tutto a posto. A cosa stai pensando? Al mio leggero accento bergamasco che ho risentito ascoltando la registrazione. Senti, io voglio davvero ringraziarti per aver mandato questo racconto, anche se era fuori dai canoni, perché adesso, insomma, mi ha dato modo di fare una puntata a cui sono particolarmente affezionato. La prima domanda è: come stai? Io sto bene, sto veramente bene. Quando ho scritto quel racconto ero in fase maturità, perché appunto dovevo dare la maturità e insomma un po' di cose per la testa, ma adesso sto veramente bene. Senti, non proprio per farmi tutti i fatti tuoi, però un po' sì anche, Andrea. Quando racconti di una persona che ti ha preso ed è stata ad ascoltarti e ti ha dato una mano, è una persona, diciamo, che lo fa per mestiere oppure qualcuno che semplicemente si è seduto e ti ha ascoltato? No, no, l'ha fatto per mestiere. Io ho passato un periodo, un annetto più o meno, con un po' di problemi fra scuola e tanto altro, e poi appunto ho incontrato questa persona che lo fa per mestiere e mi ha dato una mano a venirne fuori, e i risultati ci sono, perché sto veramente bene. Senti, cosa fai adesso? Studi medicina? Io studio medicina, sì, a Milano. Ma non sei ancora in fase specializzazione, ovviamente, perché c'hai 20 anni. No, ho iniziato settimana scorsa. Ah, proprio fresco fresco, hai dovuto fare il test d'ingresso, quella roba lì? Esatto, sì. E quindi, e poi? E fra 6 anni inizierò a pensarci. Ah, ok. Beh, ma la specialità però la decidi un attimo prima, o no? Sì, in fase di laurea, per cui se non sono 6 ho comunque 5 anni davanti per pensare. Vabbè, però ci sarà una roba che ti interessa particolarmente? Bah, sì, diciamo che tutto il campo di anestesia e rianimazione mi attira tanto, per rianimazione che per anestesia, sinceramente, però... Senti, dimmi, hai tempo per pensarci, direi che questo mi sembra evidente. Dimmi invece, e poi ti lascio andare, tu hai 20 anni, ascolti Radio 24 costantemente oppure ti capita in fasce orarie particolari? Capita di ascoltarlo in macchina, io mi tengo sempre abbastanza informato, attualità e così, eccetera, per cui quando l'ho scoperta verso maggio dell'anno scorso, ascoltando tra l'altro il tuo programma, mi ci sono affezionato e tra l'altro non è solo attualità, ma anche appunto il tuo programma piuttosto che altri che sono anche leggeri. Va bene, ci fermiamo, altrimenti mi imbarazzo io e si imbarazzano tutti gli altri di là dal vetro. Andrea, ti ringrazio ancora tanto e ti auguro un in bocca al lupo enorme. Grazie a te. Ciao, buona giornata. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Sì, è proprio una puntata particolare quella di oggi, perché anche la foto non è esattamente, non risponde esattamente ai canoni che avevamo chiesto. Però vabbè, oggi è andata così. Andrea non c'è nella foto, non c'è la sua faccia. C'è un paesaggio e c'è un paesaggio montano, direi, una strada che sale in montagna, appena prima di una curva. C'è un ruscello da una parte, che sarà evidentemente il fiume che ha scavato la valle. Sembra un paesaggio primaverile, anche se ci sono delle macchie di neve in cima alle montagne, ma anche sui dorsi. Verde, qualche roccia grigia e il cielo azzurro. 349-238-6666, a cosa state pensando? Ovviamente ognuno ha un mondo di pensieri. Sto pensando che sono disoccupato da 13 giorni, sto in macchina e non so cosa fare. Sto pensando che domani andrò a Modena, di seguito a Massa, ma con il pensiero sono già a Sanremo, a casa. Sto guidando solo, penso alla mia chitarra, alla canzone che devo scrivere. Penso che lunedì saprò se ho perso il lavoro. Questo è un pensiero comune, quello che riguarda il lavoro. D'altra parte, sto pensando che la mia pasta palu ha la farina di farro, riso e anche l'anima, Silvana. Cos'è la pasta palu? Sarà una roba tipo il kamut. Il mio amico Fede, che al supermercato biologico, mi ha insegnato che il kamut è una, è un cereale che hanno trovato in una tomba egizia. Possibile, sto dicendo una vaccata, ma probabile, probabile. Sarà una roba sintetica, probabilmente. Sto pensando, non può essere, non è vero, non può essere biologico se è sintetico. Sto pensando a quanto mi piace ascoltare cosa pensano gli altri. Pensa a me, Massimiliano. Sto pensando a mio figlio che nascerà ad aprile. Sto pensando se sarà maschio o femmina. Sto pensando che devo uscire dall'ufficio, correre a prendere i bimbi e correre a portare Vale a casa. Sto pensando che ho un trattore davanti a me su una strada strettissima e che non tornerò mai a casa. Sto pensando a come integrare la mia gara di golf di domenica, il camper e la famiglia. Difficile, molto difficile. Sto scragnando. Cosa vuol dire sto scragnando? Andrea, sei veramente giovane, cioè sei fuori di cranio? Sto pensando se sono il pesce anziano o uno dei pesci giovani. Questa è una domanda che mi ero fatto anch'io un paio di volte. Spero di essere ancora a metà, più o meno. Però proprio non ce l'ho fatta. E ho recuperato il discorso che poi pubblico sul profilo Facebook. Questa è l'acqua di David Foster Wallace, 2005, il discorso che Wallace ha fatto ai neolaureati di, non ricordo più quale università. Tant'è, sapete che in America c'è questa tradizione, no? In questi ultimi giorni tutti hanno pubblicato sul proprio profilo Facebook il discorso di Steve Jobs, quello di Stay Hungry, Stay Foolish, e questa è più o meno la stessa roba. Foster Wallace non era iperspettacolare, però diceva delle cose che sono quelle che vi ho appena letto e sono anche le stesse che sto per leggervi, perché in quel discorso c'è un'altra piccola storiella che è simile a quella dei due pesci, ma che parla in realtà di fede e ateismo. Ci sono due tizi che siedono insieme al bar in un posto sperduto e selvaggio in Alaska. Uno dei due tizi è credente, l'altro è ateo. Stanno discutendo sull'esistenza di Dio e lo fanno con quell'intensità particolare che si stabilisce più o meno dopo la quarta birra. A un certo punto l'ateo dice: guarda, non è che non abbia ragioni per non credere. Ho avuto anche io a che fare con quella roba lì di Dio e della preghiera. Era proprio un mese fa, un giorno mi sono trovato lontano dal campo in una terribile tormenta e mi ero completamente perso. Non riuscivo a vedere nulla. C'erano 45 gradi sotto zero. E così ho provato, e ci ho anche provato. Mi sono buttato in ginocchio nella neve e ho urlato: Dio, se c'è un Dio, mi sono perso nella tormenta e morirò tra poco se tu non mi aiuterai. E a questo punto, nel bar, ovviamente, il credente guarda l'ateo con aria perplessa e dice: beh, ma allora adesso dovrai credere, no? Sei o non sei ancora vivo? E l'ateo, alzando gli occhi al cielo, gli risponde: no, no, è successo un'altra cosa. È successo che a un certo punto una coppia di eschimesi che passava di lì per caso mi ha indicato la strada e sono tornato al campo. I fell in love again. All things go, all things go. Drove to Chicago. All things know, all things know. Allora, se andate a vedere la foto sul sito di oggi, in realtà Andrea mi scrive che lui c'è nella foto ed è proprio quel puntino bianco in moto, cioè la persona che è in moto che si trova nella foto. Niente, i pensieri che arrivano sono decine. Sto pensando che l'altro giorno hai detto che le brutte villette della tua zona del Novarese le abbiamo fatte noi geometri. Che ti devo dire? Sto pensando che domenica segnerò. Sto pensando perché mi sono separato da mia moglie. Sono finito dalla padella nella brace. E poi mi dicono anche che cos'è il kamut. È una varietà di grano duro, triticum durum, usato perché ha poco glutine. Grazie a Gaetano da Vicenza. Però la roba che è trovata nella tomba del faraone non ho capito se è vera. Prima di chiudere vorrei lasciarvi con una delle mail che arrivano tutti i giorni a Voi Siete Qui, @radio24.it, che inoltrano i racconti che continuano ad arrivare e Ale, il racconto, l'oggetto di questa mail era Scacco matto al KGB, che era poi il titolo del racconto che Roberto mi ha mandato. Non l'ho ancora letto, però insomma è lì e pian piano li leggiamo man mano che arrivano. La mail è questa qui. Caro Matteo, ascolto con piacere la tua trasmissione mentre nuoto. Scarico le trasmissioni che più mi interessano su un congegno MP3 da me subassemblato. Ed entrato in vasca mi faccio una nuotata in compagnia del programma. Fare vasche avanti e indietro è una bella noia, ma con voi siete qui e altri programmi di Radio 24 non vedo l'ora di andare a nuotare per tonificare corpo e mente. Io immaginarmi questo che nuota immerso nell'acqua con le cuffie nelle orecchie mi sembra una roba straordinaria. Ovviamente ascoltandoti mi hai fatto tornare alla mente una storia al limite dello spionaggio che mi è accaduta ai tempi della Cortina di Ferro. Vedi tu se la ritieni interessante. Sono a disposizione per ogni chiarimento. Per la cronaca sono un pensionato di 63 anni, ma allo stesso tempo uno studente universitario. Un cordiale saluto, Roberto da Roma. Roberto, non vedo l'ora di leggere Scacco matto al KGB. 349-238-6666, a cosa state pensando? Continuate a scrivere se avete voglia, noi li pubblichiamo sul profilo Facebook. Invece vi ricordo che il titolo del libro da cui ho tratto alcune delle letture di oggi era Questa è l'acqua, scritto da David Foster Wallace, uscito per Einaudi Stile Libero nel 2009, e comunque vi pubblico anche lì qualcosa sul profilo Facebook. La storia di oggi era la storia di Andrea e parlava del pensiero e imparare a pensare. Quella di domani invece è la storia di Luca e racconta del venerdì. Oggi è venerdì. Già so che domattina sarò di nuovo seduto qui su questa sedia, ma nonostante questo il venerdì resta sempre un giorno magico per chi lavora, per chi studia. E perché no? Anche per chi fa la casalinga. La mattina al risveglio il venerdì mi sento come un cellulare che ha passato sotto carica tutta la notte. Il dentifricio tra i denti lascia un sapore diverso dal solito. Buono, fresco. La brioche della colazione sembra tanto invitante quanto quella della pubblicità della TV. E anche se sono solo alla tavola mentre tutti dormono nelle altre stanze, il venerdì penso che la mia famiglia sia perfetta. Come quella che mangia i 5 cereali a pochi passi dal mulino. E non importa se fuori dalla finestra non vedo altro che decine di case, tutte identiche alla mia.